Buon pomeriggio radioascoltatori, eccoli di nuovo in diretta in compagnia di Rosy all'interno di Bella Vita. Che bello, oggi giovedì 2 febbraio qui all'insegna della buona musica, noi ovviamente dobbiamo sempre allietarvi e quindi ecco un nuovo pomeriggio e spero possiate stare queste due orette in compagnia mia per ascoltare tanta bella musica. Ovviamente io voglio subito dare spazio a quella che è la musica nuova qui di CRM. Bella Vita è con voi, Rosy è anche con voi, allora diamo subito spazio ai Negrita. Il giorno delle verità. Bellissima questa canzone dei Negrita. Il giorno delle verità arriva sempre. Ogni volta c'è una verità nuova che ci può portare fastidio o finalmente tranquillità. E noi siamo qui in diretta su CRM P Radio all'interno di Bella Vita insieme a Rosy. Ovviamente abbiamo appena cominciato e quindi diamo subito solo spazio alla bella musica. I know I've been telling you nothing now, but baby, come and give it to me. 'Cause I could tell by the way that you move that you're the one who could give it to me. Yeah.

è perso e più confuso. Non avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro. Però vedi che sto ridendo, e chi mi guarda Francesca Michelin, Distratto. Bella questa canzone tra le nuove, e continuiamo sempre. Questa stavolta è arrivato il momento di ascoltare Lenny Kravitz, la sua If You Want It. Se volete, appunto, potete ascoltarla qui insieme a me, insieme a Rosy, all'interno di Bella Vita. Lenny Kravitz. Looking through last window pane, don't you sit around wasting time, that would be a crying shame. There's a power that's deep inside, and it burns just like a flame. Just believe in you, see the God will shower you like pouring rain. If you want it, lato, non diventi tondo, è scontato, ma ci rimani male, ci rimani male, e ci rimani male, morti in mezzo al mare, all'improvviso cominci a bruciare, e ci rimani male, e ci rimani male, e ci rimani male. Stamattina sfogliando il giornale, vedi chi è primo in classifica, e ci rimani male. È normale, compare, ho una lista da farti segnare, iniziamo a contare. 3, 2, 1, conto alla rovescia, arriva il contattavolo e il caffè si rovescia sulla tua ragazza che pare si voglia spogliare al centro del locale Harem, e ci rimani male. Quando metti il gettone compare la scritta game over senza giocare, che male. Quando in televisione al momento del rigore salta la corrente, e ci rimani male. Se nasci quadrato non diventi tondo, è scontato, ma ci rimani male, ci rimani male, e ci rimani male. Morti in mezzo al mare, all'improvviso cominci a bruciare, e ci rimani male, e ci rimani male, e ci rimani male. Esce il mio disco, dici vallo a comprare, poi ti accorgi che sul web c'è già, e ci rimani male. Al tuo concerto sulle mani, poi ti lanci dal palco ma la gente si sposta, e ci rimani. Paghi le tasse all'erario in orario, poi vedi l'evasore in Ferrari, e ci rimani male. E che rovina quando vai in freestyle ma non trovi la rima, e ci rimani male. Ho la stoffa ma ci rimani male se lascio un buco nella strofa, e ci rimani male quando senti rap star cambi in faccia l'espressione tipo plastica facciale. Ale! Se nasci quadrato non diventi tondo, è scontato, ma ci rimani male, ci rimani male, e ci rimani male. Morti in mezzo al mare, all'improvviso cominci a bruciare, e ci rimani male, e ci rimani male, e ci rimani male. Quando vinci Jacko, una rapina da banda bassotti fuori al casino, e ci rimani male. Quando dici black block senza sapere la verità, poi dopo qualche anno ci rimani male. Quando è giorno e c'è la luna, quando c'è lo storto, quando lei non lo vuol fare, e ci rimani male. Quando sfidi la fortuna, quando scappa il morto, quando tu mi vedi ballare, e ci rimani male. Quando lavori motivata ma passa avanti lei perché l'ha data, ci rimani male. Tra raccomandati la scalata è più facile, ci rimane male, quello solo come un animale. Se nasci quadrato non diventi tondo, è scontato, ma ci rimani male, ci rimani male, e ci rimani male. Morti in mezzo al mare, all'improvviso cominci a bruciare, e ci rimani male, e ci rimani male, e ci rimani male. Va pretty braizzate in mani in aria, oh, oh, oh, oh, oh, mette fa pretty braizzate in mani in aria, oh, oh, oh, oh, oh. Se ti piace il sound o ci rimane male, oh, lascio sando se rimane male. Oh, oh, oh, oh, oh. Se nasci quadrato non diventi tondo, se nasci fagiano non diventi condor. Aspetti una sorpresa dalla vita, c'è un'attesa che è infinita, e poi tu ci rimani male. Hai capito? Non diventi buono, se nasci bastardo poi diventi stronzo. Come se arrivasse un pacco colossale, poi lo scarti, ma alla fine tu ci rimani male. Se nasci quadrato non diventi tondo, è scontato, ma ci rimani male, ci rimani male, e ci rimani male. Notti in mezzo al mare, all'improvviso cominci a bruciare, e ci rimani male. Ci rimani davvero male, e questo era proprio ci rimane male. E ci rimani male quando magari sei un rapinatore, vai a fare una rapina e anziché chiedere, dare, farti avere la borsa, dai la pistola, e quindi sei costretto a scappare. Eh sì, questa distrazione costa cara, ne sa qualcosa un aspirante rapinatore di Londra. L'uomo stava per riuscire a rubare 700.000 sterline in contanti in una filiale della Halifax Bank nella capitale inglese, ma l'inesperienza e il nervosismo lo hanno tradito. Il rapinatore ha chiesto al cassiere di mettere i contanti nella borsa che gli stava consegnando, solo che invece di passare al cassiere la borsa gli ha dato l'oggetto che teneva nell'altra mano, ossia la pistola. Il cassiere è rimasto stupito di questo clamoroso errore del rapinatore, dato che comunque non capita spesso di trovarsi un rapinatore che chiede, per esempio, metti i soldi in questa pistola oppure ti prendo a borsettate. Quindi lo stupore del cassiere ha spinto il rapinatore a rendersi conto che qualcosa non andava e si è reso conto di cosa aveva fatto e quindi ha cercato di riprendere la pistola, ma ormai questa era nelle mani sbagliate, cioè del cassiere. Quindi il rapinatore si è quindi dato alla fuga con una bicicletta che aveva parcheggiato fuori dalla banca. Adesso la polizia sta svolgendo indagini per identificare l'autore del tentativo di rapina, grazie anche ai filmati delle telecamere a circuito chiuso. E comunque gli agenti ritengono di poterlo incastrare, di poterlo quindi prendere, poiché si capisce benissimo che non era tanto esperto e quindi non è non sarà tanto difficile catturarlo, anche perché non era poi così tanto furbo, quindi già questo fa sì che verrà preso sicuramente. Ma vedi un po' te cosa succede. E qui succede invece, in diretta su CRM Happy Radio all'interno di Bella Vita in compagnia di Rosy, succede proprio che noi continuiamo ad ascoltare tante belle canzoni. Once burned, twice shy, too much of your light. I'd wait all night, but you left one too many times. I wanna change my orbit, don't care what you do now. I wanna live in darkness, don't wanna be spun around. You go down, down, down. I fall out of love with you. Le vostre canzoni anche tramite Facebook, potete chattare con me, potete quindi farmi compagnia così come cerco di farla anche io a voi. E proprio perché io voglio farvi tanta compagnia facendovi ascoltare tante belle canzoni, vi regalo proprio vi regalo la nuova canzone, il nuovo inedito estratto dall'album di Ligabue, M'abituerò. M'abituerò a non trovarti. M'abituerò a voltarmi e non ci sarai. M'abituerò a non pensarti quasi mai. Quasi mai, quasi mai. M'abituerò strappato di più. Non è mai qualcosa di esatto, chi ha dato e poi chi ha preso tutto quel che c'era. Non conta più sapere chi ha ragione. Però è il nuovo singolo estratto da Campovolo 2011 di Luciano Ligabue, triplo album dal vivo e film documentario in 3D che racconta il concerto evento dello scorso 16 luglio tenutosi all'aeroporto di Reggio Emilia, uno spettacolo straordinario che ha entusiasmato migliaia di fans provenienti da tutta Italia e che è stato immortalato anche in un cofanetto triplo CD contenente 32 brani. Questo M'abituerò è uno dei tre inediti presenti in scaletta oltre a Ora e Allora, già uscito come primo singolo, è Sotto Bombardamento. E ovviamente Ligabue è stato un grandissimo cantante che oltre al premio Tenco si è aggiudicato il premio Videoclip Italiano dell'anno per il brano Ci sei sempre stata. Ovviamente M'abituerò, sapete, risale addirittura ai tempi di Sopravvissuti e Sopravviventi, che era il terzo album uscito nel 1993, quando ancora praticamente Ligabue non era ovviamente quel fenomeno da stadio che è diventato oggi. Beh, ovviamente anche Ligabue ha fatto il suo percorso e adesso sì che possiamo dire che Ligabue è Ligabue. E continuiamo ad ascoltare la musica qui in diretta su CRM Happy Radio all'interno di Bella Vita.

e quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli o loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente ci scoffa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi. Tornati indietro nel tempo di 10 anni fa, erano gli 883, nel 2002 cantavano La dura legge del gol. E a proposito di calcio, per qualcuno infatti le regole calcistiche del fuorigioco sono complicate e poco chiare. In occasione delle Olimpiadi di Londra, la zecca inglese ha pensato di correre in aiuto dei tifosi e infatti sono state coniate una serie di monete da 50 pence, in serie limitata ovviamente, che vorrebbero aiutare a comprendere meglio il fuorigioco. Questa particolare moneta è stata coniata in seguito a un concorso che ha chiesto al pubblico e a tifosi di proporre delle monete commemorative per ciascuno degli sport olimpici. L'idea della moneta che illustra il fuorigioco è di un giornalista che, scherzando, dice che se gli avessero dato 50 pence ogni volta che qualcuno gli chiedesse di spiegargli cosa fosse il fuorigioco, adesso sarebbe molto ricco. Ma aggiunge anche che il fuorigioco è uno degli argomenti di discussione maggiori riguardo appunto le partite di calcio, e quindi anche questa moneta vuole essere qualcosa di simile, un argomento di discussione, e diciamo che finora ci sta in effetti riuscendo in pieno. Beh, infatti io non lo capisco mai cos'è il fuorigioco. Ma comunque, ascoltiamo la musica che è meglio. You need somebody who likes himself, who lives for life and never calls for help. You need somebody to walk you back, someone who loves you too before you ask. You're worth more, you're worth more than this. You can take a leap without the risk. There's no time, there's no time for this. Take your love and start again.

birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Noticing the days hurrying by, when you're in love, my, how they fly. 2 days, all of them gone. Nothing but blue skies from now on. Smiling at me, nothing but blue skies do I see. Blue birds sing a song, nothing but blue birds all day long. Never saw the sun shining so bright, never saw things going so right. Now there's another day's hurrying by, when you're in love, my heart. Disonesto e piano piano si confonde con il rumore fastidioso è sempre uguale delle onde, delle onde. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei che ti portasse fino a qui, perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sì, e ci voleva sì. Non come spesso basta un viaggio, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo dubbio non che era di passaggio. Strano ma non credo che sia peggio, non credo che sia peggio. Resterò seduto ad aspettare, non mi importa delle ore, non mi importa di sembrare un deficiente, io fondamentalmente non ho forse mai aspettato niente. Fuggo dal bisogno di scappare, resto qui e ci voglio stare, non mi importa del dolore, questa volta sempre. Caso fosse amore, me lo voglio meritare. E questa era la nuova canzone di Daniele Silvestri, Il Viaggio. E noi continuiamo sempre ad ascoltare le belle canzoni. È arrivato il momento di Katy Perry e la sua Peacock. You peacock, you peacock, you peacock. Sweated on the street, you got something to show me, me. Magical, colorful, Mr. Mystery. I'm intrigued for a peek, but it's fascinating. Come on, baby, let me see what you hiding underneath. What's up your sleeve, such a tease, wanna see the show. Oh, infinity, a movie, but it's beautiful. Be the judge and my girl's gonna take the vote. Come on, baby, let me see what you hiding underneath. I want the jaw dropping, eye popping, head turning. Peacock di Katy Perry. Katy Perry che sembra anche lei essere interessata a portare sul grande schermo i propri concerti, così come hanno fatto già i Jonas Brothers oppure Justin Bieber, o anche come ha fatto il nostro italiano Ligabue, che tra l'altro ne abbiamo parlato poc'anzi. Quindi hanno mostrato questi artisti già i loro concerti al cinema e sembra che sia interessata anche lei. Il progetto sembra essere attualmente in cantiere e vedrà appunto la realizzazione, ancora ipotetica, di un vero e proprio film concerto in stile documentario per una buona parte e rigorosamente in 3D. Quindi siamo curiosi di vedere lei al cinema. E con la gioia nel cuore, un salto e sei in cortile, dove puoi farti baciare dai caldi raggi del sole. Con la gioia nel cuore hai smesso di recitare tutti i tuoi atti di dolore, e tra essere e avere adesso sei reduce dalla prima linea, dove la giornata nasce già finita, reduce dalla tua vita. Time out, panoramico sotto un cielo con la luna piena. Time out, al panico niente sarà più come prima. Time out, Mediterraneo, saluti e baci da una cartolina. Time, time, time, time out. E con la gioia nel cuore hai voglia di parlare, di correre, di ballare, di fare un bagno nel mare. Con la gioia nel cuore che adesso scendi le scale di quel che chiamano arrivare, perché tra essere e avere sei reduce dalla prima linea, dove l'alba era come una ferita, reduce dalla tua vita. Time out, panoramico sotto un cielo con la luna piena. Time out, al panico niente sarà più come prima. Time out, Mediterraneo, saluti e baci da una cartolina. Time, time, time. Panoramico sotto un cielo con la luna piena. Time out, al panico niente sarà più come prima. Time out, Mediterraneo, saluti e baci da una cartolina. Time, time, time, time, time out. Time out, panoramico sotto un cielo con la luna piena. Time out, al panico niente sarà più. It's the most beautiful time of the year. Lights fill the streets, spreading so much cheer. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. I don't wanna miss out on the holiday, but I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. With you, shawty, with you. Gathering around the fire, chestnuts roasting like a hot July. I should be chilling with my folks, I know, but I'ma be under the mistletoe. Word on the street, Santa's coming at night. Reindeer's flying through the sky so high. I should be making a list, I know, but I'ma be under the mistletoe. Shawty with you, shawty with you. With you, shawty, with you, shawty.

è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, sono sicurissimo. Il più grande spettacolo dopo il Big Bang. E noi siamo sempre in diretta qui su CRM, dove potete fare le vostre richieste musicali. E vi ricordo inoltre che siamo in diretta streaming. Andando al www.crmhappyradio.it mi potete vedere, siamo proprio in diretta. E lì anche potete fare le vostre richieste direttamente da questo sito, appunto www.crmhappyradio.it. Continuiamo con la bella musica. Ascoltatori, adesso mi rivolgo soltanto a voi. Vi dico che il 20 febbraio 2012 si aprirà il secondo corso di formazione radiofonica organizzato da CRM Happy Radio con il patrocinio del Comune di Cefalù. Saranno 10 ragazzi a partecipare a questo corso, 10 aspiranti, speakers, DJ o animatori. Se volete essere proprio voi uno di questi 10, beh, potete ancora mandare il vostro curriculum a formazione@crmhappyradio.it. Inoltre, se volete delle informazioni più dettagliate, potete anche chiamare il 393 97 87 111, oppure il 335 75 17 930. Questo corso è completamente gratuito, quindi la partecipazione è totalmente gratuita, e alla fine delle 4 settimane verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Quindi se volete realizzare questo piccolo sogno dentro il vostro cassetto, beh, mandate questo curriculum a, ripeto, a formazione@crmhappyradio.it. E noi continuiamo ad ascoltare le belle canzoni. È arrivato il momento di Max Pezzali. Non c'è la luce senza l'oscurità, Non c'è immaginazione senza realtà. Non c'è l'assoluta grandezza della tua presenza senza il vuoto completo che mi lascia la tua assenza. Non c'è il colore caldo dell'estate, delle nostre anime aggrovigliate, senza il freddo grigio e cupo del peggiore inverno, in attesa di un messaggio, una parola o solo un segno. Tu come il sole risorgi ogni giorno, io guardo il cielo ed aspetto il ritorno di te che illumini completamente la mia vita e la rendi immensa e importante. Non c'è il capirsi anche senza parole, con uno sguardo, un gesto, un batticuore, senza sapere quanto il silenzio possa pesare, quando non c'è niente da dire, più niente da fare. Non c'è la pelle al buio che scivola, sfiorando pelle, entrando nell'anima. Se non c'è stata mai una pelle estranea in ospitale, che già dopo un secondo viene voglia di scappare. Tu come il sole risorge ogni giorno, io guardo il cielo ed aspetto il ritorno di te che illumini completamente la mia vita e la rendi immensa e importante. Si può rendere conto di te, non ti si può davvero comprendere, senza sapere quanto è duro esserti lontano, senza avere cercato e non trovato la tua mano. Come il sole risorge ogni giorno, io guardo il cielo e aspetto il ritorno. Aspetto il ritorno di te che illumini completamente la mia vita e la rete.

porta via le tristezze del viso, comunque camuffa quella tristezza, e come si suol dire, porta via l'inverno del nostro viso. Bene, allora non mi resta altro che salutarvi e darvi l'appuntamento alla prossima settimana, martedì, stessa ora, 15 circa, per un nuovo appuntamento di Bella Vita in compagnia di Rosy, sempre in diretta su CRM Happy Radio. E adesso vi do spazio a Robby D'Antoni, che è già qui pronto per...